fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarvi. Eccoci qui, siamo sempre in diretta, questo è il Convento di Lonato e questa è Resto Radio Convento, che solitamente ospita i festeggiati protagonisti della serata, ma in questo momento, in questo caso per l'occasione, ospita un supereroe, quindi direi che possiamo essere fieri, orgogliosi di avere in questo spazio un supereroe, che non capita tutti i giorni, e quindi io mi godo questo momento e approfitto di questo momento per conoscerlo meglio e fargli qualche domanda in più. Intanto lo salutiamo e lo presentiamo, buonasera. Buonasera, io sono Mattia, vengo da Vicenza. Mattia, benvenuto. Supereroe non è una battuta, perché è vestito da supereroe. Vuoi dirci come ti chiami? Perché Mattia chiaramente è il tuo nome vero, ma il tuo nome da supereroe è? Superman. Però con 4A. Super che, perché poi c'è la risposta sotto. Super che. Ah, super che, super che. Ah, ok, ok. Super che è armato. Armato, certo. Super che è un po' quello che si dice delle ragazze non bellissime, ma che però hanno personalità e si fanno, hanno un loro perché, si dice così. E esatto, quindi hanno ridato questo nome a lui perché hai personalità, evidentemente. Io ho visto questa personalità e posso confermare che, insomma, è un ragazzo di personalità. E detto questo, appunto, per questa personalità qualcuna ti ha scelto come futuro marito, è così? Sì. Ma magari anche per altro, magari anche per altro. No. Lei sia mia futura sposa. La tua futura sposa, e ti ha scelto per quale motivo, secondo te? Per il tuo superpotere. Per i superpoteri. Per i superpoteri, certo, certo, bene, bene. E quando vi sposerete? 13 ottobre. 13 ottobre, ecco, quindi mi raccomando, 13 ottobre attenti, perché non ci sarà nessuno a proteggervi, perché il nostro supereroe Mattia sarà impegnato in un altro posto, quindi speriamo che i malviventi non colgano l'occasione per derubarci e speriamo che noi non saremo derubati, perché lui non ci potrà salvare. E vabbè, dovrà prendersi un giorno di riposo nella vita. Sì, uno. Un giorno di ferie. Madonna, un giorno di ferie, non va mai in ferie, non va mai... Crimine, come si dice, non va mai in vacanza, e va da sé che chi combatte il crimine non può andare in vacanza. Non può andare in vacanza. Ma dai, sto giorno almeno è così. E come vi siete conosciuti, se posso chiedere? Siamo con un locale in un disco bar, così semplicemente, come capita spesso. Però, come succede, insomma, la maggior parte delle volte, il supereroe non è mai solo, perché è, insomma, invidiato, stimato da tutti, ed è accompagnato anche da tanti, non solo amici, immagino, ma anche, come dire, gregari, aiutanti. Bravo, bravo, bravo. Ci vuoi dire chi è qui con te? Abbiamo Ciso, Leonardo, Biggio e Cesco. Che sono un po' il suo Robin. Ah, il suo Robin, il braccio destro, il braccio destro. Superman e Robin. Superman e Robin, bello, bello. E non ho un super potere come quello suo, però insomma. Beh, perché sennò saresti lui. Sì. Quindi però, hai insomma, un... dai, me la cavo. Esatto, un po' più basso, sì, ma comunque importante. Small, hai una S. Hai una S. Lui, vedi, è una bella S grande, una XS. Una XS, giusto, giusto. Allora dai, parlaci un po' del tuo, perché immagino anche che sia un po' il tuo idolo comunque, no? Sì, devo. Cioè, il tuo esempio da seguire. Sono felice che tu me l'abbia chiesto, perché devo tutta la mia vita. A Mattia, mi ha salvato la vita. Madonna. Da quel momento. Raccontaci com'è andata, raccontaci cosa è successo. Mi sentivo solo, ero vittima di bullismo a scuola, finché un giorno è arrivato Mattia con il suo superpotere, ha spaventato tutti nelle docce e in quel momento mi ha aiutato e da lì ho detto, cioè, da un grande potere derivano grande responsabilità, giusto. E lì ho detto, devi metterti un mantello, non coprire tutto, perché sennò nessuno vede il tuo superpotere. E da lì ha cambiato la vita di tante altre persone. Come vedi, siamo diventati una, certo, squadra. Una squadra. Che cuore, che cuore. Io farei un applauso al cuore di Mattia. Siamo un po' gli Avenger. Che cuore, mamma mia. Toccante, veramente mi sono commosso e emozionato per questo racconto. E pregherei a tutti quelli che conoscono Mattia di aggiungere un amen su Facebook. Un amen, va bene, lanciamo questo messaggio. Va sempre bene. Tra l'altro ti ringrazio, perché raccontare, ho visto nei tuoi occhi molta commozione, ancora insomma difficoltà nel ricordare questi momenti, quindi ti ringrazio di averli condivisi con noi, però insomma vedo che c'è tanto, ecco, da raccontare, quindi grazie. Siamo diventati un po' la Barbara D'Urso. Sì, è stato un momento molto toccante, molto emozionante. Mattia, vuoi dire qualcosa? No, ragazzi, i miei amici che mi aiutano a combattere il male, va bene. Anche se faccio tutto io. Anche se faccio tutto io. Beh, però insomma, diciamo che il mondo... Il mondo è grande, non è che puoi coprirlo da solo, è come Babbo Natale alla fine, non è che Babbo Natale si fa tutto il mondo in una notte da solo, ha bisogno di una mano. Siamo noi che ci rende partecipi. Bravo. Avventura di questi superpoteri, cioè non è da tutti. No, non è da tutti, comunque non è una vita standard la vostra, no. Avete possibilità di vivere una vita insomma diversa da quella che vivono tutti gli altri. Assieme essere messi in gioco, cioè non è semplice. È bello, è molto bello, è molto bello. Ed è bello che vi siate messi insieme anche qui per festeggiare il vostro eroe, il vostro protagonista. E ci uniamo alla vostra festa e facciamo gli auguri a Mattia, che quindi si sposerà il 13 ottobre. E grazie per essere stati con noi. Grazie mille, ragazzi. Passata. Alla prossima, ciao! Ciao, ciao! Vai Mattia! Arriva.